nei confronti del Galati dei 2000, dai suoi continui contatti con Brunelli, evidenziati dai verbalizzanti che nel corso dei pedinamenti videro più volte il giovane frequentare l'abitazione di via Scalasante in Verona del Brunelli ed incontrarsi con lo stesso per lunghi ed appartati colloqui nello stile degli appuntamenti di servizio dell'irregolare. Dare al rinvenimento nella sua abitazione di un vasto elenco di armi e relativi tagli che l'imputato assume non suo, ma della cui presenza in casa non ha saputo dare spiegazione, nonché di appunti schematici tipici degli aderenti alle Brigate Rosse, difficilmente riciclabili, che il giovane si limitò a dire di tenere per suo uso per i suoi contatti con il Soccorso Rosso di Verona. Nello schema comunque si leggono parole come Molli e Zuffi, probabilmente il brigatista Zuffara, armi, contatti, Paolo, Carlo, frasi e nomi su cui l'imputato non ha voluto dare spiegazioni. Dal fatto che, pur avendo egli una regolare abitazione a Verona, aveva preso in affitto insieme col Fasoli un appartamento in Favaro Veneto, fin dall'1 del 1976, a suo dire in vista di una futura iscrizione poi non più fatta all'Università di Mestre. Giustificazione non plausibile ad avviso del giudice istruttore, in quanto l'affitto può spiegarsi con la destinazione dei locali ad una base Brigate Rosse per irregolari, visto che oltre il Galatti lo frequentavano il Fasoli e il Pedilati. Ritenuta la sussistenza di sufficienti elementi di colpevolezza anche a carico del Fasoli e del giudice, all'affitto dell'appartamento di Faro Romero, pur avendo egli irregolare abitazione. Motivi rigetta l'istanza di scarcerazione presentata dall'avvocato Sergio Spazzali in favore dei detenuti Galati Michele, Fasoli Marco e Pedilarco Luigi. Milano 24/7/1976. Il giudice istruttore dottor Antonio Lombardi. Soccorso Rosso Militante. Comitato Internazionale Difesa Detenuti Politici in Europa Occidentale. Sezione Italiana. Comunicato stampa del 17 luglio 1976. A proposito della terza istruttoria sulle Brigate Rosse e dell'inchiesta sulla uccisione del dottor Coco. La terza istruttoria sulle Brigate Rosse, quella affidata al dottor Lombardi di Milano, e l'inchiesta sull'uccisione del dottor Coco, affidata al dottor Carassi di Torino, stanno prendendo una strana piega. In mancanza di responsabili, la magistratura, con l'evidente scopo di avallare e dare lustro a confusionarie, arbitrarie e puramente spettacolari operazioni dei carabinieri, emette mandati di cattura e avvisi di procedimento privi di qualsiasi fondamento e senza disporre del più piccolo indizio, in spregio totale anche della legge borghese. Si veda il caso clamoroso di Galati Michele, Fasoli Marco, Pedilarco Luigi, arrestati a Verona il 14 giugno scorso con l'accusa di partecipazione a bande armate, articolo 306 del Codice Penale. Al dottor Lombardi, che ha aspettato 17 giorni per interrogarli, non è stato possibile contestare i detenuti, oggi in carcere ormai da oltre un mese, il più tenue indizio che sostenga l'accusa. Tuttavia, all'istanza di scarcerazione avanzata dal difensore, non è stata data neppure risposta, mentre i familiari dei detenuti subiscono perquisizioni e pedinamenti diretti, secondo gli inquirenti, a scovare a posteriori quegli elementi a carico degli imputati che non esistevano al momento dell'arresto. Nel frattempo, in data 7 luglio 1976, il dottor Carassi, del Tribunale di Torino, ha notificato avviso di procedimento per omicidio volontario del dottor Coco e della sua scorta a Michele Galati e Marco Fasoli. I due sono stati interrogati solo oggi, 10 giorni dopo la notifica dell'avviso, e sottoposti a ricognizione personale, nonostante che le loro fotografie fossero state già pubblicate dal secolo XIX a cura dei carabinieri, da parte di 15 cosiddetti testimoni oculari del fatto. Nessuno li ha riconosciuti, e tuttavia sono ancora in carcere. La magistratura inquirente deve spiegare perché. Protestiamo contro questi assurdi arbitri ed esigiamo la immediata scarcerazione di Michele Galati, Marco Fasoli e Luigi Pedilarco. Alleghiamo comunicato sottoscritto dalle sezioni di Verona di Avanguardia Operaia, Lotta Continua, Lega dei Comunisti e del collettivo Giuristi Democratici di Verona. Milano, 17 luglio 1976. Ancora un commento dell'avvocato Sergio Spazzali. Ecco, più in generale, perciò partendo da questi esempi e da altri come ce n'è insomma molti, più in generale possiamo diciamo ribadire alcune considerazioni che sono già state accennate e che comunque sono delle questioni di fondamentale importanza in questo momento, cioè esistono, sono in corso delle diciamo trasformazioni tecnico-giuridiche dell'attività della magistratura che sono esplicitamente dirette a colpire forme di dissenso radicale. In modo particolare ci sono alcune questioni di fondo per quanto riguarda le competenze dei tribunali, cioè quello che è stato detto e preannunciato da Cossiga come l'ipotesi di una nuova legge che consentisse l'istituzione di tribunali speciali, che sono vietati dalla Costituzione. Questa ipotesi qui, così che potrebbe essere così contrastata dal punto di vista della costituzionalità di questa legge, nei fatti però viene già realizzata. No? Viene realizzata attraverso quella serie di sentenze della Corte di Cassazione che ha stabilito con delle motivazioni assolutamente, diciamo così, medievali, borboniche, assolutamente senza senso, che tutti i processi per imputazioni di 306, cioè di bande armate che si riferissero alle Brigate Rosse, dovevano essere fatti dalla Corte d'Assise di Torino, con una giustificazione di questo tipo, cioè questa giustificazione si contiene nell'ultima delle sentenze della Cassazione, quella del 4 marzo, che riguarda il processo Semeria e altri, in cui si dice che è per appunto poi il processo in cui sono imputati anche i compagni Brunelli, Galati, Fasoli e Pedilarco, in cui si dice che la Corte d'Assise di Torino è competente comunque perché nella città di Torino ha sede il cuore pulsante dell'organizzazione. Ciò è detto senza alcun tipo di spiegazione, cioè non si spiega, non è detto perché il cuore pulsante si trova a Torino. Anzi, bisogna anche considerare che la prima istruttoria che è stata passata a Torino non è stata passata perché il cuore pulsante era lì, ma era stata passata, era quella di Sossi, perché Genova non poteva gestirla per ragioni, perché aveva come parte lesa un magistrato della stessa Corte d'Appello, per cui era stata destinata un'altra corte. Perciò originariamente la competenza di Torino non era affatto dovuta al cuore pulsante, era dovuta a delle altre ragioni, delle ragioni anche così coerenti a quella che è la procedura penale. Mentre adesso se questa storia del cuore pulsante consente di fare della Corte d'Assise di Torino un tribunale speciale per queste imputazioni. Perché? Perché ha dietro le sue spalle alla procura Caccia, che è uno specialista di questi processi, perché ha un punto d'appoggio fondamentale nell'ufficio di istruzione, che è Caselli, che è un esperto di questo tipo di cose, perché ha trovato un presidente di assise che è Barbaro, che è particolarmente insomma qualificato o adatto, secondo il giudizio del potere, a condurre avanti questo tipo di processi. Ora, come d'altra parte si tende a fare della Corte d'Assise di Napoli una corte specializzata nei processi in atto, anche se effettivamente anche lì non ce n'è un vero motivo dal punto di vista processuale, finché questa legge speciale Cossiga non dovesse passare, e per passare dovrebbe affrontare questi dibattiti di costituzionalità. No? Ecco, per cui anche questo è anche una cosa rilevante, cioè spiegare in qual modo questi tribunali speciali sono già in funzione, no? Sono già in funzione nonostante che siano anticostituzionali, nonostante che perfino una legge che li potesse legittimare ha delle difficoltà a essere anche solo proposta. E altre modifiche diciamo della struttura di questi organismi così della repressione giudiziario poliziesca sono quelli che tutti sanno già, probabilmente perché i giornali ne hanno largamente parlato, per esempio quell'ipotesi di costruzione di carceri speciali, no? Che è stata largamente diffusa da sempre da Cossiga e così via, e che anche questa è un'ipotesi che può essere realizzata sì così dal punto di vista razionale molto di là nel tempo, perché è difficile costruire, noi ce ne sono in costruzione, ma è un problema molto come costruire di nuovi, ma di fatto già adesso vengono attrezzati a carceri speciali dei bracci o parte o tutto di carceri normali, no? per esempio il primo raggio di San Vittore a Milano, per esempio il carcere di Volterra, per esempio quel mezzo raggio speciale che stanno mettendo a posto a Torino, appunto per in attesa di mettervi tutti quanti detenuti del processo delle Brigate Rosse che comincia il 3 maggio, eccetera. E compre un carcere come era stato anche per un periodo la Favignana, adesso la Favignana mi pare che non vada più bene, non si sa perché, l'Asinara, insomma, no? Ecco, o Luciardone a Palermo, oppure per, specialmente per il femminile, il Novara, il carcere di Novara. E cioè queste cose qui vengono largamente, diciamo così, realizzate prima della loro razionalizzazione legislativa. Lo stesso vale per il discorso della militarizzazione del carcere, nello stesso tempo in cui si dice che la riforma carceraria deve essere portata in fondo fino a carcerarie, il controllo esterno del carcere e perciò e anche quello interno in caso di casini, va bene, viene affidato ai carabinieri, i quali naturalmente è difficile ipotizzare che vengano mai smilitarizzati. No? E, perciò diciamo di fronte a tutte queste proposte, questi discorsi che vengono fatti sul terreno propagandistico, noi dobbiamo tenere presente che questi orientamenti e direttive vengono già obiettivamente realizzati, sono già realizzati, e per cui il movimento nel suo complesso non si trova nella necessità di affrontare una realtà che è già questa, insomma, e che è inutile fare la battaglia, cioè inutile, insomma, non è inutile, ma è marginale, ecco, fare la battaglia contro delle proposte di legge la cui realtà invece esiste già. Bisognerebbe fare la battaglia, bisogna fare la battaglia contro questa realtà che esiste già. Ecco. Altrimenti ci si fa, diciamo, delle illusioni inutili, ecco, sulla possibilità di vincere questo tipo di involuzione così fascistoide o fascista, senz'altro, delle istituzioni.